stata molto sofisticata in questo, a non parlare di ex marito, perché non ti viene, secondo me, nel senso che, tant'è che io ho inventato una parola per questo rapporto che è l'amore eterno, cioè Lidia e Lorenzo non possono rinunciare alla, si amano, però non, la vita ha fatto sì che loro non possano stare insieme per tutta una serie di motivi. E quindi hanno accettato che la vita inventasse per loro questo rapporto. Nei miei romanzi, soprattutto in questo, che è un po' anche un bestiario dei modi che noi abbiamo di darci o non darci agli altri, no? C'è chi sta insieme tutta la vita, c'è chi invece proprio non vuole più giocare al gioco dell'amore, c'è chi si inganna, c'è chi inganna l'altro. A me interessano sempre, ma fin da piccola nei miei romanzi ci sono questi rapporti che non hanno un nome facile, no? Non riesci a dare un nome a certe cose. E spesso però, e però io attorno a me ne vedo tanti di rapporti ineffabili eppure molto profondi. Spesso le persone per paura, quando non sanno dare un nome a una cosa, allora la cancellano dalla propria vita. Il tentativo invece di questi personaggi è mantenerla, perché certo è vero, il rapporto di Pietro con sua figlia, si capisce, ci mancherebbe altro, è sua figlia. E invece Lidia e Lorenzo sono una coppia senza figli, ma forse il loro amore è il figlio che non hanno avuto, la loro complicità intellettuale, mentre succedono cose nel romanzo, loro sono come un contrappunto filosofico, no? A quello che succede, parlano. Trovo commoventi questi rapporti, difficilissimi, però hanno il sapore controverso che è la vita, della vita. È la vita. Grazie Chiara Gamberale, ora in libreria con Adesso, pubblicato da Feltrinelli. Noi facciamo una piccola pausa e poi parleremo ancora di libri. Grazie Chiara. Grazie Alessandra, a te. Il cacciatore di libri. Ora non vi parlo di un solo libro, ma vi parlo di ben 6 volumi, perché stiamo parlando di un'antologia, sì, avete capito bene, di un'antologia riservata alle scuole. In particolar modo sono 6 volumi riservati agli ultimi 3 anni dei licei, oppure c'è la versione, diciamo, short, chiamiamola così, sono 3 volumi dedicati invece agli istituti tecnici professionali. Il titolo di questa antologia, quella in 6 volumi dedicata ai licei, è Al cuore della letteratura. È pubblicata da Giunti TVP Editori e anche il marchio prestigioso della Treccani. È la prima volta che la Treccani dà, come dire, il suo sigillo ad un'antologia della letteratura italiana. Questa antologia è stata scritta da 2 professori, naturalmente 2 professori di liceo, Roberto Carnero, che insegna a Cantù, e Giuseppe Iannaccone, che invece insegna a Roma. Allora, Roberto Carnero, tutta questa presentazione, insomma, noi perché parliamo nel cacciatore di libri di un'antologia per ragazzi, insomma? Perché lo sappiamo, alla fine i ragazzi in Italia sono quelli che leggono di più rispetto agli adulti, la fascia fra gli 11 e i 17, poi purtroppo c'è un crollo nella lettura dei romanzi, eccetera. E poi perché è interessante capire che cosa adesso i ragazzi leggono a scuola, sia come antologia che come letture consigliate dai professori, dagli insegnanti. Allora, questa nuova antologia, Al cuore della letteratura, vabbè, parte dalle origini, arriva ai giorni nostri, ma qual è la novità? Qual è il vostro approccio? Qual è l'approccio originale tuo e di Giuseppe Iannaccone? Sia Giuseppe Iannaccone che il sottoscritto siamo 2 professori di liceo, come dicevi. Abbiamo quindi cercato di scrivere un libro adatto ai ragazzi, quindi non un libro con ambizioni accademiche, come spesso vengono fatti dai bravi docenti universitari che spesso sono gli autori di queste letterature per la scuola, ma proprio un libro, un'antologia della letteratura italiana pensata per i ragazzi di oggi. Quindi abbiamo cercato di fare un discorso accattivante anche nello stile, uno stile immediato, uno stile colloquiale, adatto proprio ai ragazzi, perché spesso questi manuali sono un po' difficili, quindi se si scoraggiano a leggere il profilo, basta, poi finita, non arrivano poi neanche i testi che non, dovrebbe essere che la cosa principale, più, no? Insomma, invece bisogna far innamorare i ragazzi della lettura. Noi siamo convinti che non dobbiamo creare dei critici letterari in erba o degli storici della letteratura in miniatura, ma dei lettori, quindi educare al senso letterario. Quindi abbiamo cercato di avvicinare gli autori attraverso anche un po' il racconto della loro vita privata, del loro carattere. Ogni autore ecco, ha una l'approccio all'autore, insomma, voi presentate chiaramente una serie di autori, ma qual è il taglio che date? Mentre nei manuali tradizionali avevamo magari 30-40 pagine di profilo di un autore e poi lo studente doveva ricavarsi da solo la poetica di quell'autore, noi presentiamo già subito, dopo la vita e le opere presentate in maniera schematica, subito i grandi temi di quell'autore. Ah, quindi facilitate sì, anche un po' il compito ai ragazzi. Una pagina, due pagine per ogni tema, dopodiché attacchiamo al grande tema subito un testo che lo esemplifica. Allora, di questa antologia, chiaramente io sono andata a vedere subito l'ultimo volume, il sesto. Certo, perché quello che incuriosisce tutti. Eh sì, perché è un classico che quando, insomma, almeno io quando ho fatto il liceo, non si arrivava mai a studiare gli autori contemporanei ed è veramente un peccato. È chiaro che l'ultimo volume è dedicato dal Novecento ad oggi, ma siete riusciti ad inserire anche autori attuali che possono essere magari anche per i temi e per il modo in cui scrivono più vicini ai ragazzi di oggi? Abbiamo provato, ma ci sembra di esserci riusciti, nel senso che anche lì abbiamo proposto un percorso, l'abbiamo chiamato percorso semplificato nella letteratura del secondo Novecento, dicendo tutto non si può fare, ma tra il tutto e il nulla c'è una via di mezzo. Allora dobbiamo raccogliere questa sfida come docenti, cioè arrivare ai giorni nostri il più possibile, almeno sì, perché avvicinarsi. Altrimenti i docenti perché sennò si arriva prima, a un Garetti Montale quando va bene, molla. No? E il programma finisce lì. E se poi gli studenti non si iscrivono alla facoltà di lettere, ormai sono pochi che lo fanno, non avranno una conoscenza del periodo più recente. Quindi abbiamo puntato su alcuni prosatori, nel secondo Novecento unità specifiche ci sono in particolare su Pavese, Fenoglio, Gadda, Pasolini e Calvino. Invece per quanto riguarda i poeti abbiamo focalizzato l'attenzione su due poeti emblematici di questo periodo che sono Luzzi e Caproni. Però concludiamo con una unità sulla nuova narrativa italiana che va da Pier Vittorio Tondelli e Silvia Ballestra. Ah beh. Quindi per aprire anche i linguaggi giovanili a un tipo di stile vicino al parlato dei nostri ragazzi. Ecco, a proposito del parlato dei ragazzi, tempo fa avevo fatto anche in una puntata del Cacciatore di Libri, avevo fatto il classico Vox Populi, no? Fra i ragazzi, insomma, voi leggete, cosa leggete, le letture a scuola. Molti dicono che le letture, diciamo quelle estive che danno gli insegnanti, che segnano gli insegnanti, sono pesanti, cioè si continua ad assegnare, non so, i Malavoglia di Verga o il Demetrio Pianelli di De Marchi, insomma tutti libri, come dire, un pochino lontani dai ragazzi. Tu come la pensi? Bisogna farli sforzare nel leggere questi classici o bisogna dargli qualcosa che sia più vicino alle loro corde? Ma dare qualcosa, come dici, vicino alle loro corde va benissimo come, diciamo, grimaldello, no? Chiave per aprire la porta. Dopodiché, se noi riusciamo a suscitare questo piacere alla lettura, possiamo anche proporre cose più impegnative, magari facendo loro notare la differenza, per cui il libro facile che piace a livello immediato ti dice meno e ti lascia meno di un libro magari apparentemente più complicato, un po' più ostico da leggere, da capire, che però appunto ha magari uno sfondo storico, ha personaggi dinamici che evolvono nel corso della vicenda e quindi insomma io voglio dire, mi va benissimo che leggano Paolo Giordano e La solitudine dei numeri primi, che è un libro che piace molto ai ragazzi, è scritto con un linguaggio semplice, ma poi mi piace che arrivino a leggere Il quartiere di Vasco Pratolini. Visto che si tratta di un'antologia scolastica, chiaramente la gente non può andare in libreria a comprare questi libri. Perché quindi ne stiamo parlando qui? Sicuramente per dare un'idea che esiste un modo di fare antologia diversa. E poi perché naturalmente gli insegnanti sono i principali responsabili poi delle scelte, perché alla fine chi è che sceglie l'antologia scolastica? Sono gli insegnanti e deve essere una scelta consapevole, perché in questo periodo dell'anno noi insegnanti siamo inondati nelle sale professori di pacchi di libri, ogni editore propone il suo. Ecco, è importante che li guardiamo, no? Che non scegliamo a scatola chiusa, cioè che soprattutto pensiamo di scegliere un libro che non piaccia tanto a noi, perché noi potremmo anche prendere l'enciclopedia della letteratura italiana in 10 volumi, ma certo. Che vada bene per i ragazzi, perché quello è lo scopo. E allora ricordiamo l'antologia in doppia versione. Allora, la versione in 6 volumi per gli ultimi 3 anni del liceo, che si intitola Al cuore della letteratura, pubblicato da Giunti e Treccani, abbiamo detto. E poi c'è la versione, diciamo, per i tecnici professionali, che è in 3 volumi e si chiama I colori della letteratura. Entrambe sono state scritte da Roberto Carnero, che ringrazio. Grazie a te. Che naturalmente è professore di lettere in un liceo di Cantù, provincia di Milano, e è scritto anche da Giuseppe Iannaccone, anche lui professore, quindi sono abituati ad avere rapporti proprio con i ragazzi, a sapere che cosa interessa loro e che cosa invece butterebbero dalla finestra, che invece, dicevamo prima, insegna in una scuola romana. Prima di chiudere vi ricordo che sul sito del Sole 24 Ore ogni martedì trovate una nuova puntata di Autori, le strade della narrazione. Si tratta di un video in cui uno scrittore legge una parte del suo libro e poi lo racconta in modo inusuale, senza mediazioni. Martedì 15 marzo la puntata con Antonio Moresco, scrittore di culto, tra l'altro candidato quest'anno al premio Strega, che ci parla del libro Gli Increati, pubblicato da Mondadori. Ecco un estratto. Sono nato il 30 ottobre 1947, all'imbrunire, brandello di carne rigettato con furia da un altro corpo, concepito 9 mesi prima da un soldato, reduce dalla più grande guerra mai combattuta su questo pianeta e da 6 anni di campo di concentramento, e da una domestica non più giovane, sventrata al momento del parto dalla mia grossa testa infelice. Sono morto il 30 ottobre 2010, nel cuore della notte, investito da una macchina mentre camminavo per strada succhiando un tronchetto di liquirizia e fantasticavo. Finora solo qualche grande poeta antico ci aveva raccontato la discesa di eroi vivi nel regno dei morti o aveva preteso di essere andato di persona, da vivo, nell'aldilà e di esserne poi ritornato. Io sono il primo che vi racconta, da morto, quello che succede nel regno dei morti. Si sente dire spesso tra i vivi che nessuno ci ha mai raccontato davvero quello che c'è dopo. Bene, adesso qualcuno c'è. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast e potete seguirmi per essere sempre aggiornati anche su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.